La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Carlo Lucarelli è un famoso scrittore di noir. Il successo dei suoi libri lo avvicina al cinema e poi alla TV. Seppur cresciuto, Lucarelli resta sempre il ragazzo di Parma, gentile, finto tranquillo, che gioca alla guerra in cortile. Anzi, proprio una normalità più assoluta. Abbastanza tranquillo, senza insomma creare troppi problemi. Da piccolo in che senso? Ragazzino, cioè sì, adolescente. Ragazzi. Da bambino mi dicono ero un bambino che faceva un sacco di capricci. Quindi un bambino rompiscatole, però abbastanza buffo. E questo glielo dice sua mamma? Me lo diceva mia mamma, sì. Sì. E poi invece crescendo direi abbastanza tranquillo, ero uno di quei bambini che a scuola prendevano 7, no 8, neanche 6, neanche 5, quelli 7, cioè quelli normali, quelli bravo, intelligente, ma non si impegna abbastanza. E fuori come era? A fuori avevo un gruppo di ragazzini, giocavamo in cortile, giocavamo sempre a guerra, quindi perché era quella la generazione lì, no? Eravamo sempre tutti armatissimi, quindi eravamo una specie di piccolo esercito in cortile, facevamo delle battaglie tutti i giorni. A Parma? A Parma, questo, sì. E lei vive ancora a Parma? No, io vivo a Mordano, che è vicino a Bologna. Sono andato via da Parma molto presto, avevo 10 anni, quindi in teoria con Parma insomma c'ho meno a che fare. Sono andato a Faenza, che sta in Romagna. E quindi c'è anche se, diciamo, questo legame con Parma, però in realtà è un legame legato a dei ricordi, ad un passato. Certo, sì, a dei ricordi soprattutto. Il fatto che è la mia città, eccetera, però insomma ho dei ricordi quando ero piccolo, appunto il cortile, i bambini, la scuola, tutte quelle cose lì, ma poi non è che abbia mai vissuto la città o che la viva adesso la città di Parma. Però non so se magari è una mia sensazione, però da lettrice io ho sempre l'impressione che nei suoi libri è come se ci fossero delle luci particolari, no? E a Parma, non so se questo collegamento è forzato, però le poche volte che ci sono andata mi è sempre sembrato che ci fosse una luce diversa. In qualche modo questa città l'ha influenzata nella sua scrittura? Beh sì, sicuramente sì, sì, sì, perché la città che io utilizzo per la scrittura è Bologna, ed è un'immagine di Bologna un po' particolare, no? Una specie di metropoli, una città allargata, eccetera, eccetera, va bene. Però devo dire, poi i ricordi, quelli proprio di bambino, sono quelli di Parma, di solito sono quelli che influenzano, sì, è vero. Ci trovo anche delle affinità, tra un certo senso, tra certe, non so, luci e ombre di Bologna per via dei portici, e invece questa luce, non so come dire, morbida che c'è a Parma, perlomeno che mi ricordo io. Sì, esatto, la luce calda, morbida. Esatto, sì, sì, sicuramente sì. Io se devo pensare a uno che cammina da bambino, molto mi viene in mente i giardini di Maria Luigia a Parma, anche se lo devo ambientare, non so, a Los Angeles, probabilmente mi viene in mente quello. Senta, lei ha esordito molto giovane ed ha subito avuto un grosso successo di pubblico proprio, e sono soprattutto i ragazzi quelli che l'hanno in qualche modo promossa da subito. Sì. Perché? Il primo esordio che ho avuto era con 2 romanzi storici, sono stati, quindi da quel punto di vista lì, se ho intercettato un lettore che era un lettore giovane, perché erano romanzi polizieschi, e in quel momento lì, che era l'inizio degli anni 90, il poliziesco era un genere di frontiera, come diceva Elvira Sellerio, cioè in cui si sperimentavano cose strane, e la sperimentazione, no, o il genere hanno sempre toccato magari un pubblico più adesso, dire giovane è difficile, diciamo fresco, insomma, nel senso che è giovane, nel senso che ha voglia di vedere delle cose nuove. E dopo ho scritto un romanzo che si chiama Almost Blue, abbastanza presto, che quello invece è quello che era molto legato alla musica, ad un certo tipo di linguaggio, anche lì un po' particolare, forse a certe inquietudini che comunque anche parecchie persone giovani sentivano, perché era un romanzo che parlava di serial killer, ma soprattutto di inquietudine, di angoscia, di cose esistenziali. Thank you. Almost Blue diventerà un vero e proprio caso letterario. Dal libro nascerà anche il film. Per molti un film che non regge la bellezza del libro, per altri un vero e proprio capolavoro. L'esordio letterario di Lucarelli avviene con il giallo Carta Bianca del 1990. Sarà il primo di una lunga serie. Lucarelli collaborerà anche con Dario Argento, scriverà per diversi quotidiani e vincerà moltissimi premi letterari. Ma saranno sempre la voglia di condividere e la generosità a segnare la sua vita, come quando fondò il Gruppo 13, un'associazione di scrittori romagnoli di romanzi gialli, o come quando iniziò ad insegnare nel carcere Due Palazzi di Padova. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Dalla periferia del mondo a quella di una città, la strada non è una caramella e il nero lo sa. Carlo Lucarelli è uno scrittore, padre di due gemelle, pieno di amici e con la passione per i gialli. Nel tempo diventerà uno dei più importanti giallisti contemporanei in Italia e il suo modo di fare TV aprirà un vero e proprio genere. La sua prima volta inizia in un cortile di Parma, tanti anni prima, quando da bambino giocava alla guerra. E alla fine tutto quello che faccio io è raccontare delle storie, in un modo o nell'altro, in televisione, con più o meno, non so, rilevanza civile, tutto quello che vogliamo, insomma. Però ho sempre fatto solo quello e io mi diverto tantissimo a raccontare delle storie, proprio è una cosa che mi piace, quello che faccio alla radio, in televisione o che faccio con i romanzi, e sicuramente sì, io ho proprio la voglia di raccontare, se ho una bella storia da qualche parte in testa mi viene proprio la voglia di raccontarla a qualcuno, che è quella cosa che abbiamo poi tutti noi che ci chiamiamo narratori, insomma, sia che lo facciamo scrivendo, sia che lo facciamo al bar o qualunque cosa. E quindi sì, c'è un divertimento da quel punto di vista. E sono in mezzo ad una compagnia di persone che hanno più o meno anche loro lo stesso gusto, quindi è un divertimento collettivo. Lei è anche stato molto attivo in questo senso, nel senso nel mettere in contatto le persone, no? Fondando anche dei gruppi di scrittori, partecipando a situazioni proprio di socialità tra scrittori, comunque tra intellettuali. Questo l'ha fatto sempre seguendo quel bisogno di cui parlava adesso? Beh sì, sì, da una parte sì, perché sì, e dall'altra voglio dire, io tanto vivo in una regione, in una zona, anche in una città che è Bologna, no? Io sto vicino a Bologna, comunque è la stessa cosa, che ti porta a queste cose qui. Noi ci troviamo sempre a tavola a mangiare e a discutere mangiando dalle nostre parti, quindi questo porta ad una specie di dimensione conviviale comunque, no? Cooperativa anche, vista poi le tradizioni nostre qua. E questo da una parte ti stimola, magari in altri posti gli scrittori si sentono più distaccati e si fanno un po' più gli affari loro, noi qua siamo abituati a stare in compagnia, in più c'è anche il fatto che io appartengo al genere, appartenevo perlomeno insomma comunque al genere, noi scrittori di genere, i cosiddetti non giallisti, ci siamo sempre sentiti più artigiani che artisti. Gli artisti fanno fatica a parlare tra di loro, gli artigiani parlano degli strumenti, delle lime, no? del tornio, di quelle robe lì, e noi quindi c'è un terreno comune, no? Su cui parlare, e io mi sono trovato in mezzo a questo movimento qui, cioè a ritrovarmi, non so, con Marcello Fois a parlare di veleni, per esempio, quando scriveva un romanzo così, oppure a parlare con Machiavelli di suspense, di costruzione della trama, fare tutto questo mentre eravamo a tavola, che qualcuno di noi aveva cucinato. Abbiamo scoperto, io ho scoperto che è molto più divertente mettersi assieme e chiacchierare piuttosto che farsi la guerra per dividersi pochi lettori, e questo è stato insomma quello che è sempre successo. Però è vero che è abbastanza ossessivo, come i medici, no? Si trovano i medici e parlano di medicina, gli avvocati appunto parleranno di, i giornalisti la stessa cosa, gli scrittori sono lì e parlano, finché si parla di film o di libri è un conto, perché in effetti probabilmente è un gusto comune, no? Allora trovarsi lì e dire sono andato a vedere quel film eccetera, è una normale conversazione culturale, quando poi cominci a dire ti ricordi lui cosa ha fatto, perché l'ha fatto, la trama, la suspense, comincia ad essere un po' noioso, sono d'accordo, soprattutto sono noiosi gli scrittori quando stanno scrivendo un romanzo, perché c'hanno in testa solo quello. E parlano solo di quello, quindi. Ma in genere io sono uno di quelli che non ne parla, perché se ne parlo poi non lo scrivo, quindi sei davanti di solito una persona Sì, cioè di solito attorno una persona silenziosa che sta pensando a un'altra cosa, scorbutica, ma non è divertente, dura poco per fortuna. Quanto dura più o meno la stesura di un libro? Beh, lo so che è una domanda assurda, sì, a cui rispondere. È assurda perché se uno facesse lo scrittore come dicono di fare gli scrittori americani, no? Dalle 9 alle 5 di pomeriggio tutti i giorni, beh, allora magari durerebbe, secondo me, dai 4 agli 8 mesi a seconda del romanzo che è. E poi invece noi facciamo una vita particolare, siamo sempre in giro tutti, no? Voglio dire, noi c'è sempre qualcos'altro da fare, quindi può durare anche 7 anni, come. Però alla fine credo che se vado a condensare il tempo che ci metto, il tempo è sempre quello, una media di 6 mesi. Senta, lei è anche papà di due bambine, giusto? Sì, sì, ecco. Sì. E quanto ha inciso questa paternità, diciamo, nel suo stile, nelle cose che ha scelto di scrivere, nel suo senso di responsabilità, credo? Sì. Ma no, da quel punto di vista non è che abbia inciso più di tanto, perché io scrivo le stesse cose che scrivevo una volta, di solito si attinge anche all'esperienza personale. Io non sono uno di quelli che attinge all'esperienza personale con frequenza, no? O direttamente. Alcuni scrivono, no? Di quello che gli accade, o io di solito no, ho storie strane con personaggi che non sono io, però finisce che quel piccolo dettaglio, quella sensazione che, no, che magari hai scoperto nella tua vita personale, poi la rubi e la porti dall'altra parte. In questo senso sicuramente le bambine hanno inciso, perché appunto mi sono ritrovato da quasi 16 mesi ad avere a che fare con bambini piccolini che crescono, e queste cosine qua, questi piccoli dettagli, queste osservazioni sentimentali in qualche maniera le ho usate. Sto finendo un romanzo in cui c'è una donna che potrebbe essere incinta di due gemelli, in cui insomma tutte queste cosine qua le ho portate, questo sicuramente. Però non è che abbiano cambiato, perché alla fine ho solo del materiale in più dentro cui rubare, le cose le tengo abbastanza separate, devo dire la verità. Io poi scrivo di cose tremende, quindi ci mancherebbe che mi metto a immaginare una cosa del genere in relazione alla famiglia, ci mancherebbe. Hanno cambiato a livello di tempo, quello sì. Perché prendono tanto tempo, ovviamente, anche io ne ho due. Sì, queste poi sono gemelle. E ho scoperto che due gemelli non vuol dire moltiplicare per due, vuol dire per quattro almeno, perché la contemporaneità è micidiale. Poi sono bravissime, per carità sono buonissime, non sono mai ammalate, tutte queste cose meravigliose, però insomma è una bella fatica. Eh sì, è dura. Senta, le volevo chiedere un'ultima cosa. Sì. Lei è consapevole del fatto che il suo stile di conduzione televisivo ha cambiato proprio, secondo me, tutta una serie di codici di comunicazione televisiva relativi proprio al giornalismo investigativo, quel modo di parlare così, scandendo, prendendosi delle pause? Si è accorto? Sì. Sì, oddio, adesso non è che sia io che ho inventato chissà che, io poi in un certo senso, non dico rubavo lo stile, però c'era già una base di questo stile, che sarebbe il narratore che racconta una storia, anche lì. Ci sono tanti modi, no, di raccontare quelle storie lì, Augas lo faceva in un modo, per esempio, no? Poi ci sono stati tanti altri che hanno condotto dei programmi in quel modo. Poi a un certo punto ogni tanto sono arrivati degli scrittori che raccontavano come ti racconterebbe un romanzo. Uno di questi era Baricco, con Pickwick e con le sue trasmissioni. Io venivo dopo quello, no? E ho usato lo stile di un giallista, che è un'altra cosa, che sono io, per raccontare quel tipo di storie, facendo due cose che fa la narrativa: una sintesi, quindi magari altri stili di altre tecniche, tipo quelle del giornalismo, per dire, che magari potevano essere meno sintetiche, no? Meno narrative, più dettagliate, eccetera. Io non le ho usate, ma ho usato le mie. E poi c'è il fatto che io sono lì e so fare solo così, e quindi questo tono medio, piano, no, nel raccontare le cose, è l'unico che so utilizzare. Alla fine è risultato una cosa efficace, perché la sintesi narrativa è servita a raccontare delle storie complicate, semplificandole, senza svilirle naturalmente, no? E questo fatto di raccontare in un modo così tranquillo, in un certo senso, è scandito delle cose che a me viene, non dico naturale, viene obbligato, so fare solo così, nel raccontare storie complicate, emotivamente coinvolgenti, insomma, è abbastanza difficili, è il risultato giusto, cioè non caricare sugli effetti, secondo me è stata la strada giusta. Sì. Ecco, dopo questo sì, in effetti ho visto che un po' di persone si sono messe ad utilizzare quella tecnica lì, che non è che l'ho inventata io, è la tecnica della narrazione, se vogliamo. Però sì, ogni tanto sento, questa cosa qui la facciamo alla Lucarelli, beh, sono contento, potrebbero dire alla scrittora, alla narratore, comunque mi fa molto piacere. La prima volta termina qua. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre attorno alle 13. Scrivetemi all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Se andate sulla pagina della trasmissione potete invece riascoltarci, leggere il blog e diventare nostri amici su Facebook. Ciao a tutti, da Cristina Carpinelli. Turn around back so the windshield shows every street light. Reveals a picture in reverse. Still, it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight.